fuoco una stabè da Sicilia, d'incia l'ome core, sta vampa forte brucia. Vampa che cresce, che non si assuta mai, che mischia corpo e musica soltanto se lo vuoi, soltanto se lo vuoi. Capisci la mia rabbia, si riversa su un sistema che ci vuole chiuso in gabbia, con sbarre invisibili che stanno dappertutto. La libertà apparente ed è per questo che io lotto. La domenica allo stadio, il grande fratello nei televisori, mentre la gente impazzisce chiedendo il reddito minimo ai lavoratori, contributi delle pensioni, quando arriveranno, ciuri ciuri tutto l'anno, ma sto governo con me la danno. A Sicilia sta cancenno e te mangiano e se ne fottono, comandano con la mafia e sta povera terra sfruttano. Ma nella vita mia, la lotta è melodia, su reggae è fuoco che brucia, su reggae acqua che roccia, su reggae ne faccia pensare, su reggae ne faccia ballare, su ritmo come una femmina sa essere dolce e passionale, ballare e pensare sapendo che lo messaggio arriva diretto, compagne che vinciate in sol, pensano a e lo fanno perfetto, per quelle donne che sopra una sciata sanno a venire per campare, per tutte le parti famiglia che senza cavallo spacciano per mangiare, per te pezzi ride con mille problemi che a scuola non possono andare, perché domani a giocare in questo mondo non ci vogliono stare, per tutte le pratiche in nome di Dio vogliono avere invece di dare, per la gente che si accontenta che vede problemi ma resta a guardare, per tutti quei ladri chiamati politici che hanno pensato solo a rubare, pipone, pipinta, gente strana sta a consigliare, libera il tuo spirito da ogni repressione, non ce la farai se pensa a quello che non hai, fatti trasportare da una sana vibrazione, dico vivi questa musica e non ti fermare mai. Parramo di compagni, compagni, compagni in mia insasciata, riunioni, cortei e lotte e passa una voce aggiornata, combattere il sistema e affrontarlo con coraggio, la nostra lotta è il solo, ogni compagno un singolo raggio, intanto la mia mente vaga, viaggia lontano, la mente quando scrive è più veloce della mano, passando da Fallujah sopra i monti del Nepal, e il mio pensiero arrivo fra Temu mi abbuja mal, e l'Afghanistan, il Kurdistan, la Palestina, usando spaccato il nome uno passare in cenoscedina, senti la voce di chi combatte quella indifferenza, un fiore malvagio che sboccia in una profonda disuguaglianza, siamo diversi per condizione, siamo diversi ed un noto di fatto, tu te ne fotti perché ti conviene, tu te ne fotte io combatto, il sole che ci cuoce e l'acqua che ci bagna, ma ogni fottuto dolore non vale quanto il sorriso di una compagna, un proletario che pensa come uno fa schifo e che niente rimane da dire, vince nei negozi, c'ha la stare l'occhio perché manco niente se voglio cazzare, aumenta la vita, aumenta e restano basse solo le salare, guarda che arricchisce quel povero invece non sa più come cazzo va a campare, chiedo unità contro la globalizzazione, compagni tutti uniti questa è l'unica soluzione, tra sacrifici abile sogna vita ricompagne, su reggae e pennulace, su reggae e ti compagni.